Grazie Manselli per le parole che ha detto e perché ha ricordato che effettivamente io ho parlato di Federico Barbarossa alla Reichenau e ne ho parlato su invito di Theodor Meyer, che mi è caro qui ricordare a quanti l'hanno conosciuto di persona e non soltanto attraverso i suoi scritti. Credo che qui sarà risultato molto chiaro come noi siamo legati alla memoria dei nostri vecchi maestri. Hanno insegnato moltissime cose sul piano scientifico e anche sul piano umano. E questo è il ricordo di Theodor Meyer, in questo momento per me è sul piano umano oltre che quello scientifico. Io ho parlato di Federico Barbarossa e delle città italiane e della Lega Lombarda. Sono passati 16 anni e direi che non trovo molto da aggiungere a quelle due relazioni che ho tenuto in quell'occasione, e una delle quali, come ricordava il professor Manselli, ha avuto l'onore di essere compresa in un volume della, no, non è neanche detto, della collana Wege der Forschung, tradotta in tedesco. È quello relativo ai rapporti fra Federico e le città, mentre invece è rimasta non tradotta il saggio sulle città e la formazione della Lega. In quella relazione io cominciavo accennando alla mitizzazione risorgimentale del contrasto fra Federico Barbarossa e le città italiane, un problema che allora non era ancora stato studiato, ma che ha dovuto aspettare le due relazioni del professor Appet e del professor Manselli in questa nostra riunione per essere affrontato. Ora noi abbiamo le idee molto più chiare su questa figura storiografica, cioè sulla storiografia, su Federico II, di quanto non l'avessimo 16 anni fa. In quella mia relazione dicevo anche che noi non abbiamo una storia critica della Lega Lombarda, cioè della grande antagonista di Federico Barbarossa. E Brezzi, nella sua relazione, lo ha praticamente confermato, anche se non ha affrontato il problema. Noi non abbiamo ancora una storia critica della Lega, della posizione delle varie città della Lega, dei partiti all'interno delle città aderenti o nemiche di Federico e della Lega, ed è tutta una parte che dovrà essere una buona volta indagata, anche se dal 1964 si sono fatti dei passi avanti nella ricorrenza dell'ottavo centenario della Lega. A un famoso congresso che si è tenuto in Piemonte ad Alessandria, che era dedicato a popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa, nel congresso di Bergamo che era dedicato ai problemi della civiltà comunale, e devo mettere proprio come lavoro di rottura quello che è già stato ricordato della mia quasi omonima Fasola, sulle famiglie bolognese-milanesi fautrici di Federico Barbarossa. Segna questo lavoro di questa giovane studiosa una strada che bisognerà percorrere per quanto è possibile per tutta la città. Nel preparare questa relazione per Trento, io ho riletto quanto è stato scritto in questi anni e ho riletto soprattutto le fonti per vedere se, con 16 anni di esperienza di più, mi veniva qualche idea nuova. Ho riflettuto e mi sono ritrovata al punto di partenza. Non trovo niente da modificare all'interpretazione che mi era sembrato di poter dare tanti anni fa dei rapporti tra Federico Barbarossa nelle città italiane. Oggi come ieri mi sembra che si tratti dell'inevitabile scontro fra due sistemi politici diversi. Uno fondato sulla secolare tradizione del Regno Italico, assorbito nell'impero, l'altro sistema scaturito dal vuoto di potenza che la lotta per le investiture aveva determinato nell'ambito di quello stesso regno. È un'interpretazione che è naturalmente collegata col mio modo di vedere, di interpretare la formazione dei comuni italiani, ma comunque il punto d'arrivo è l'esistenza di questi due sistemi. Siamo tutti d'accordo che la politica di Federico Barbarossa non può essere costretta entro l'angusto schema del contrasto con le città italiane. E continuo a parlare di città, perché la città, le città sono qualche cosa di molto più vivo e vitale che non la loro forma di governo. È certo però che la riaffermazione dell'autorità imperiale nelle città italiane, la disponibilità delle risorse finanziarie italiane, che era possibile soltanto attraverso il controllo dell'amministrazione della città, erano le condizioni che determinavano tutto il resto del programma imperiale di restaurazione di Federico dopo il lungo interregno, perché il problema dell'interregno è un grosso problema. Tutti gli interregni che si sono succeduti uno dopo l'altro meriterebbero veramente di essere indagati sia in Germania che in Italia. E scusate la digressione, ma qui più che delle esposizioni di fatti dobbiamo fare una puntualizzazione di problemi. Al di là delle relazioni diplomatiche, delle dichiarazioni di principio, delle affermazioni polemiche di cui si potrebbe fare un'antologia, e in pratica l'abbiamo fatta tutti nelle note ai nostri lavori, al di là di tutto questo sta di fatto che il riaccendersi del conflitto tra regnum e sacerdozium, di cui ci ha parlato Capitani da par suo, la rivalità con l'impero d'Oriente, l'ostilità con il regno normanno, di cui ci ha parlato ieri Cilento, sul terreno pratico si incontravano con la volontà autonomistica delle città italiane. Si incontrava con la loro volontà di resistenza alle rivendicazioni imperiali in Italia. Tutti questi interessi in gioco dovevano inevitabilmente incontrarsi nell'Italia del Nord, e non soltanto per ragioni geografiche. Si scontravano nell'Italia del Nord perché le forze vive e attive su cui i contendenti potevano far leva, papato, impero, bizantini e normanni, erano soprattutto quelle dell'Italia del Nord. Le forze del lavoro, del commercio, dell'industria, della cultura, le forze delle cose, delle dottrine e delle idee. Era lì il punto in cui lo scontro sarebbe avvenuto. Io non credo che Federico Barbarossa fosse quel dottrinario che qualche volta qualcuno ha voluto vedere in lui, ma aveva certamente un alto senso, un altissimo senso dell'autorità e della responsabilità regale. Non era solo che ambizione, era senso di responsabilità, e questo suo senso era condiviso dai suoi collaboratori laici ed ecclesiastici, come ci ha detto il dottor Erken Ratz nella lezione di ieri. Il punto punto di partenza del programma di Federico Barbarossa era il ristabilimento della pace territoriale in Germania, condizione essenziale per l'affermazione della sua autorità di sovrano e per l'affermazione dello Stato per quanto era a quei tempi possibile. E lì è veramente il ristabilimento della pace territoriale il suo punto di partenza. Strettamente connessi con questo proposito erano l'intendimento anche di dare al concordato di Worms un'interpretazione il più possibile favorevole alla corona e anche la volontà di riaffermare in tutta la loro estensione i diritti regi sull'Italia per consolidare l'opera di ricostruzione in Germania, per affrontare con sicurezza i problemi posti all'impero d'Occidente dalla politica irrequieta dell'imperatore d'Oriente Emanuele Comneno, i problemi posti dall'esistenza del Regno di Sicilia, e ritorniamo alla relazione di Cilento, che era vassallo della Santa Sede, e dalla necessità di soccorrere vigorosamente la Terra Santa, gli stati cristiani di Siria, perché non dobbiamo dimenticare che Federico Barbarossa era stato crociato negli anni della sua giovinezza e finisce come crociato. Sono i due punti fra cui è chiusa la sua attività politica, ma non è un fatto puramente politico, è realmente un fatto spirituale. L'imperatore ha il dovere di difendere la Terra Santa e il sepolcro di Cristo. Dobbiamo vedere questa grande parabola in cui si chiude la sua attività. E in questo io vedrei uno degli aspetti della grandezza di Federico Barbarossa. Devo dire una grandezza che mi sono dovuta faticosamente conquistare, perché Raul Manselli ricordava la mitizzazione risorgimentale di Federico Barbarossa, ma io ho fatto le scuole in quel clima. Il Federico Cattivo, del Federico Cattivo mi sono dovuta liberare con molta più fatica di quanto non se ne liberino i giovani adesso. C'è un po' della mia autobiografia in questo, va bene. Comunque, per attuare la sua politica, Federico aveva bisogno di uomini e di denaro. Il Regno di Germania poteva dare gli uomini dopo aver stabilito la pace territoriale che gli ridava il controllo delle forze feudali e delle forze anche delle città tedesche. E la Germania poteva anche dare un po' di denaro, i vescovi erano ricchi tutto sommato, ma il Regno d'Italia doveva dare uomini e molto denaro. La fama della ricchezza e della prosperità dell'Italia era una fama molto largamente diffusa e forse superiore anche alla realtà. È noto il passo di Ottone di Frisinga, di cui io ora ho dato la fotocopia, in cui egli cerca di disegnare un quadro della situazione italiana. Incivitatum quoque disposizione ac rei publice conservazione antiquorum aduc romanorum imitantur solertia. Per chiarire a se stesso e ai suoi lettori la struttura dei comuni italiani, l'unico termine di paragone a cui poteva ricorrere un uomo del suo tempo e del suo stampo era l'antica Repubblica Romana. E non c'è, direi, ombra di riprovazione né in quell'altra sua affermazione, quando deve constata che i Longobardi libertatem tant opere affectant ut potestatis insolentiam fugendo consulum potius quam imperantium regantur arbitrio. Ma è sempre la Roma dell'antichità il suo termine di paragone. Direi anche, sono interessanti le notizie che lui ci dà cum tres inter eos ordines, id est capitaneorum vavassorum plebis esse nos cantur ad reprimendam superbiam non de uno, sed de singulis predicti consules eliguntur. Neve ad dominandi libidinem prorumpat, singulis pene annis variantur. È un'osservazione di un estremo interesse che però vorrei dire con quel richiamo ai capitani e ai vavassores si riferisce più a Milano che non alle altre città. Milano e Roma sono i due paradigmi che Otone di Frisinga ha davanti. Direi anche che non c'è un'ombra di riprovazione nel fatto che ogni città abbia imposto la sua autorità nel territorio. Cosicché vix aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambito in venire potest qui civitatis sue non sequatur imperio. Non direi che Federico Barbarossa, che Otone di Frisinga, trovi deplorevole questa soluzione perché è un principio d'ordine. E non disapprova nemmeno che nelle città italiane si consenta agli artigiani e alle persone di condizione inferiore di giungere ad milizie cingulum vel dignitatis gradum. Non gli pare deplorevole e questo fatto in cui gli sembra di riconoscere un segno, diciamo, della prosperità delle città italiane che appartengono all'impero. Le città sono prospere, prospero l'impero che ha i diritti di governo di queste città. Quello che Ottone deplora col massimo vigore è che le città si siano avvantaggiate della lunga assenza dall'Italia dell'impero, cui di conseguenza si sono disabituate ad obbedire. Principem, qui volontariem exhibere deberent subiectionis reverentia, vix aut nunquam reverenter excipiunt. Velea, quae secundum legum integritatem sanciverit, obedienter excipiunt. Nisi eius multi a stipulazione coacti sentiant auctoritatem. E mostra di non aver capito bene che in realtà le città sono prospere, hanno certe forme di prosperità e di governo proprio perché è una conseguenza dell'impero. Non potevano esserci l'impero, la presenza dell'impero, l'obbedienza alla prosperità cittadina. Non sente che questi due termini sono in contraddizione, non sente che sono due sistemi politici diversi, come io, avvantaggiata da qualche secolo di ricerche storiografiche, ne sono in grado di dire. Ora, venendo per la prima volta in Italia nel 1154, Federico Barbarossa aveva delle idee abbastanza precise su certi aspetti della realtà italiana, perché aveva ricevuto la visita di esuli normanni che chiedevano l'intervento dell'impero nel sud, aveva ricevuto la visita di, conosciamo quella dei cittadini lodigiani che protestavano contro le prepotenze di Milano, aveva già raccolto molte lagnanze degli oppressi contro gli oppressori, usiamo questi termini di comodo. Però non pare che fosse animato da una ostilità preconcetta contro il regime comunale e contro il sistema consolare. Tant'è vero che accetta la presenza dei consoli di Pavia e dei consoli di Novara fra i testimoni del diploma con cui trasferisce a Cremona il diritto di batter moneta che aveva tolto per punizione a Milano. Informa Federico i consoli di Mantova di Brescia e di Bergamo di questa sua decisione e poi, passando alle città toscane e alle città di Pisa, affida ai consoli di Pisa espressamente nominati il compito di punire la falsificazione della moneta pisana. Il valore di questi atti, di questi dati, che ci mostrano la sua non preconcetta ostilità contro il regime consolare, è però attenuata dal fatto che si tratta di consoli di città che avevano assunto un atteggiamento lealistico nei confronti dell'impero, un atteggiamento lealistico che è fondato sulla tradizione o anche sull'opportunità del momento. E per quel che si riferisce alle relazioni di Federico con Pisa, le relazioni dell'imperatore con Pisa e anche con Genova sono volutamente buone, perché Pisa e Genova dispongono di quella flotta di cui Federico prevede di dover avere bisogno quando attaccherà il regno di Sicilia, cosa che è nei suoi programmi. Federico, d'altra parte, aveva però avuto modo di constatare come era difficile imporsi alle forze locali italiane. Prendere le difese dei deboli, diciamo così, degli oppressi, e imporre la pace territoriale senza essere irretito nelle contese e nelle rivalità fra comune e comune, senza venir meno a quella imparzialità che era nei suoi propositi ma non era nelle sue possibilità. Perché Federico, per venire a capo della resistenza o dell'opposizione di alcune città, per indurle a ripristinare certe situazioni nei confronti delle terre delle città minori che avevano occupato, Federico II non aveva forze sue sufficienti e doveva servirsi delle forze militari italiane, quindi doveva servirsi degli uni contro gli altri. E per assicurarsi gli appoggi dei militari italiani finiva per forza col mettersi al servizio dei rancori, della volontà di rivincita, della frenesia di vendetta delle città italiane. Ed era rientrato in Germania lasciando dietro di sé le rovine fumanti delle città e dei castelli che aveva devastato. E di queste devastazioni le cronache italiane non ci danno sempre una motivazione sufficiente. Federico Ottone di Frisinga parla di devastazioni e distruzioni dovute al mancato pagamento del fodro o al pagamento, come ricordava mi pare anche Brezzi, del fodro con moneta falsa tentata dagli spoletini. No, con l'imperatore al momento della resa nel settembre del 1178, è il secondo foglio che io vi ho dato ed è indicato con una freccia, c'è un primo tentativo di definire le regalie. È il trattato di pace del 1158. Regalia, veluti monetam, telonium, pedaticum, portus, comitatus e taglia similia sicqua sunt, comune mediolanensium dimittet. Un tentativo di definire che cosa sono le regalie che rimane però così alquanto approssimativo. Ora, da chi e in quali circostanze e con quale metodo venisse poi perfezionata questa prima rudimentale definizione alla dieta di Roncaglia è una cosa talmente nota che non è il caso di tornare a parlarne. È interessante il fatto, secondo me, che i quattro dottori che parlavano da teorici abbiano voluto l'assistenza dei rappresentanti delle città italiane i quali conoscevano la realtà delle cose. Perché evidentemente una cosa sono i diritti regali nella loro essenza, un'altra cosa i diritti regali nella realtà delle singole città italiane. Comunque a quella definizione sono arrivati di comune accordo. Quella definizione è andata a finire nel corpus iuris, come voi ben sapete, come è stato detto nella lezione di ieri o dell'altro ieri da un intervento del professor Colliva, che di questa materia è più esperto certo di me. Conviene ripetere però che, date le circostanze, i comuni non potevano far altro che accettare la volontà imperiale, prestare un nuovo giuramento di obbedienza, consegnare degli ostaggi, evidentemente Federico non si fidava molto, e confidando di poter in seguito dar valore determinante alle proprie scelte in un clima di generale inosservanza della legge, che è sempre la grande speranza di tutti, e direi in particolare in questo ambiente. Nel quadro della politica che intendeva perseguire nei confronti della feudalità italiana per rinsaldarne i rapporti di dipendenza dall'impero, Federico aveva anche voluto rompere quegli accordi che subordinavano i feudatari del contado alle città. Un tema estremamente delicato, su cui si sono dette, direi, molte cose convenzionali, e sulla quale io ho cercato di fare un pochino di luce sulla base dei documenti in una relazione all'École Française che Dio sa quando verrà pubblicata, e mi dispiace di doverla citare in questo modo. Comunque, anche questa volontà, questo ordine di Federico di interrompere questi rapporti, questi accordi fra le città e i feudatari, non solleva obiezioni o difficoltà immediate. E le città confidano nell'inosservanza della legge, nella possibilità di riprendere, confidano anche nella quantità di rapporti di varia natura che ormai si sono intrecciati fra i feudatari e la vita cittadina, tutto quello che la vita cittadina politica, economica, sociale offre ai feudatari. I feudatari sono lieti di recuperare una certa autonomia, ma si riservano evidentemente la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio le relazioni che hanno in città. Le difficoltà cominciano quando si vuole dare applicazione pratica, caso per caso, alle deliberazioni di Rocaglia, come puntualmente ci raccontano i cronisti. Sono noti gli episodi di Genova, di Piacenza, di Crema, di Milano, e non è il caso di parlarne ancora una volta. Conviene piuttosto sottolineare che le decisioni di Roncaglia non riguardavano soltanto che le città italiane. La rivendicazione delle regalie colpiva anche vescovi abati, e il riconoscimento dei diritti di coloro che potevano documentarle con il possesso di antichi privilegi imperiali o regi riproponeva la questione delle investiture e offriva all'imperatore l'occasione per tentare di applicare anche in Italia, o imitare, diciamo, anche se non applicare, le clausole del concordato di Worms relativo alla Germania. Per di più, l'imperatore mostrava di voler far valere la sua autorità anche nei territori rivendicati come propri dalla Santa Sede e nella stessa città di Roma, mentre Adriano IV, preoccupato delle intenzioni e dell'intransigenza di Federico, più o meno segretamente animava le città a resistere. Nello stesso tempo, emissari bizantini, di cui abbiamo notizia abbastanza precisa, stringevano rapporti con i comuni lombardi e Guglielmo II di Sicilia entrava anch'egli nello schieramento antiimperiale per una sua necessità vitale di sovrano. Il contrasto fra l'imperatore e le città della pianura padana si inserisce così in un contesto politico molto più ampio che tuttavia ha i suoi punti focali nelle città e in particolare a Milano. E Milano è veramente nella visione politica degli uomini del tempo il fuoco, il centro, il nucleo, il luogo, è proprio il punto nevralgico di tutta questa situazione. L'apertura dello scisma, la scomunica dell'imperatore e dei suoi alleati non salvarono Milano, che cinta d'assedio nell'agosto del 1161, il 7 marzo del 1162 dovette arrendersi e fu letteralmente rasa al suolo. Federico poteva ritenere di aver riportato una grande vittoria e come tale la celebrò, ma l'avvenimento ebbe un'eco vastissima in tutta Europa, rafforzò la generale ostilità contro l'imperatore e la fedeltà verso Alessandro III, perfezionando quel processo di identificazione della difesa della libertas ecclesiae con quella della libertà comunale. E già nel 1159 i milanesi avevano fatto un passo molto importante, non per le conseguenze immediate, che non furono apprezzabili, ma per la prospettiva che apriva. Dum obsideretur Crema, durante l'assedio di Crema, mediolanenses iuraverunt cum brixienses et placentiis et miserunt legatos ad Adrianum Papa, qui erat in Anagna, et concordia fecerunt iste tres civitates cum eo, quod eximte non paciscerentur ver aliquam concordiam facerent cum Federico imperatore, abstu licentia Adriani Pape. Si sono alleati, promettono che non faranno pace con l'imperatore senza l'approvazione di Papa Adriano. Siamo ancora in fase precedente all'apertura dello scisma, ma queste relazioni fra papato e città sono già avviate. E su questa linea di alleanza con la Santa Sede i comuni rimasero fermi, fino a quando Federico Barbarossa perseverò nel mantenere aperto lo scisma e con un abile rovesciamento di politica non si risolse a riconciliarsi con Alessandro III e non riuscì a rompere l'alleanza fra comuni e papato. Quale fosse il piano di riorganizzazione del Regno d'Italia elaborato da Federico e dal suo cancelliere Rainaldo di Dassel è noto. Si sarebbe dovuto porre in essere un sistema di governo centrato, basato su podestà e castellani di nomina imperiali, scelti in buona parte tra piccoli feudatari italiani o tedeschi, coadiuvati da una gerarchia di funzionari da essi dipendenti e variamente coordinando questa struttura che potremmo dire come espressione di comodo burocratica con la feudalità e con le condizioni di privilegio alle città amiche dell'impero. È quel quadro di cui ci ha parlato anche il dottor Opel nella sua relazione. Era qualcosa di simile al sistema già esistente nel Regno Normanno, messo in atto da Ruggero II e mantenuto più o meno bene dai suoi successori. Ma l'ambiente italiano era profondamente differenziato per tradizioni e interessi di vita urbana, via via che dal nord si scendeva verso il sud. E ciò che era possibile in Sicilia o nell'Italia meridionale non lo era in Toscana e ancora meno in Lombardia. In Toscana, dove il movimento comunale non aveva ancora assunto quella forza, quella consapevolezza che aveva nella Langobardia, Rainaldo di Dassel riuscì a introdurre un ordinamento che, pur conservando alle città la libertà di eleggere i propri consoli, salvo la conferma imperiale, ne limitava l'autorità alla città e al suburbio, mentre il governo del comitato veniva diviso tra funzionari imperiali di vario ordine e grado. È un sistema che poi anche Federico II tenterà di mettere in piedi con scarso successo. Nella pianura padana si tentò qualche cosa di simile, mantenendo nelle città arengo e consoli, con funzioni molto ridotte e sottoponendoli all'autorità di rettori di nomina imperiale. Ci richiamiamo ancora alla relazione Hopl e alla relazione Erkenratz. E mentre in Toscana, a quel che pare, non si verificarono degli abusi di carattere amministrativo e fiscale tali da compromettere la situazione, in Lombardia, dove si intendeva fiaccare lo spirito autonomistico cittadino, le cose andarono in tutt'altro modo. E le fonti narrative, anche quelle più favorevoli a Federico, sono concordi nel denunciare gli arbitri, le prepotenze, le iniquità dei funzionari imperiali, e la loro denuncia trova conferma nei documenti d'archivio. E con questo io mi richiamo a tutte le serie di ricerche di uno studioso tedesco di grande valore, che ricordiamo anche lui con affetto in questo momento, noi siamo abbastanza vecchi per averlo incontrato, che era il Glitterbock. Ora, la prepotenza, gli arbitri di questi podestà imperiali è arrivata al punto che hanno fatto sparire dagli archivi cittadini i documenti relativi alle prerogative, ai diritti delle città medesime. Hanno veramente compiuto degli abusi veramente gravissimi, e si ha anche l'impressione che obbedissero a degli ordini molto precisi in questo loro modo di comportarsi. E lo vediamo anche in un altro momento, e cui ritornerò. E fu proprio questo governo, malgoverno intollerabile, di questi funzionari, che non pochi, per dir la verità, erano italiani, questo malgoverno spinse alla ribellione le città di Verona, di Vicenza, di Padova e di Treviso, incoraggiate e sostenute da Venezia, sempre molto attenta a quello che succedeva nel retroterra, su cui non aveva diritti, non aveva diritti di governo, ma in cui aveva fortissimi interessi economici. E agiscono in questo senso anche gli emissari bizantini, che a Venezia avevano il loro punto d'appoggio. La tensione andava crescendo anche nelle città che per tradizione secolare erano di parte imperiale. E lo constatava un forestiero che scriveva una lettera a Tommaso di Canterbury, e che vale la pena, me l'ero dimenticata di trascriverla, però l'ho ripescata. Non l'ho ripescata quell'altra. Ecco, questa lettera, che è pubblicata nel Recueil des Historiens de Gaulle, dice: «Urbes Italiae, minus prompte solit, sunt in obsequo eius, adeo quod patienses et cremonenses, per quos Italian dobit et contrivit, et in facem resistunt, annunciaverunt ei quod abeo recedant omnino, nisi deponeret tirannide, et civiles induat mores, ut liberi esse possint sicut in viebus agliorum imperatorum». Perfino ci avverte questo malcontento, perfino di Pavia e di Cremona. Ora, i privilegi, sì, ecco. Ora, i privilegi che l'imperatore aveva elargito ad alcune città per ricompensarne la devozione, mantenerle fedeli o perlomeno per impedire che passassero dalla parte dei ribelli, erano in realtà una deroga ai principi solennemente proclamati a Roncaglia, perché prevedevano questi privilegi la libera elezione dei consoli. Offendevano le altre questi privilegi, sebbene fossero dei privilegi come l'ordinamento introdotto da Rainaldo di Dassano in Toscana, sebbene questi privilegi inquadrassero per la prima volta i funzionari comunali nel diritto pubblico dell'impero, conferendo loro poteri, sia pure limitati, di governo e di giurisdizione. Ma era un regime di privilegio, revocabile d'arbitrio del sovrano, che d'altra parte non si preoccupava di eliminare gli abusi commessi dai suoi funzionari nelle città a regime ordinario. E fu un grave errore da parte di Federico non accogliere i reclami che gli furono formalmente presentati alla Dieta di Lodi nel 1166, perché mentre egli si dirigeva a Roma per insediarvi Pasquale III e iniziare la campagna contro il Regno di Sicilia, e strada facendo rastrellava denaro come e dove poteva, e questo ce lo racconta il nostro, no, sì, ce lo racconta il continuatore di Acerbo Morena, che non è certo sospetto di antipatie per l'imperatore. I funzionari, sicuri dell'impunità, moltiplicavano le prepotenze e le esazioni, e le città lombarde, consapevoli che una per una non sarebbero state mai in grado di liberarsi di coloro che le opprimevano e di chi li comandava, si strinsero in una lega. Quali che siano state le trattative preliminari, di cui non abbiamo la minima idea, le prime città che si mossero per associarsi furono Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona, che misero da parte gli antichi rancori che le dividevano, giurarono alleanza reciproca e compirono un gesto simbolico dimostrativo. Iniziarono la ricostruzione di Milano. La storia della Lega Lombarda noi la possiamo ricostruire sui documenti pubblicati dal Vignati in quella storia della Lega Lombarda che nel 1967 è stata ristampata in edizione anastatica dalla bottega di Erasmo su proposta del qui presente professor Manselli, che ha fatto anche una presentazione e che ha rimesso in circolazione un'opera di importanza fondamentale. I documenti pubblicati dal Vignati non sono, di cui dà anche la tradizione, non sono forse pubblicati in una maniera ineccepibile, ma li ritroviamo pubblicati a regola d'arte, secondo tutti i sacri canoni della paleografia e della diplomatica, nella raccolta degli atti del Comune di Milano pubblicati da Cesare Manaresi e che sono facilmente accessibili. Però, quando noi ritorniamo a guardare questa prima lega, quando si considera che due delle città collegate, come Mantova e Cremona, avevano ottenuto da Federico larghi privilegi, ci si rende conto che la sua volontà di restaurazione del potere centrale aveva urtato contro le incontenibili esigenze della società cittadina, cui le condizioni di privilegio non bastavano più. E su questo punto tutti erano d'accordo, lombardi, veneti e romagnoli. Scusate, parliamo di lombardi, di veneti, di romagnoli per indicare tre aree geografiche con un linguaggio che in realtà è moderno, ma con questo ci spieghiamo meglio. E il 1° dicembre del 1167 la Lega delle città venete si unì a quella delle città lombarde formando quella grande Lega unitaria che sarebbe passata alla storia con il nome di Lega Lombarda e della cui sostanziale debolezza, di cui parleremo, il primo ad accorgersi è stato non uno storico di professione, ma un romanziere, perché ricorderete che Manselli ci ha parlato di Massimo D'Azeglio, che doveva scrivere un romanzo storico, che si è messo a studiare col sistema di suo suocero, che era Alessandro Manzoni, e che nel 1846 rivelava in una lettera tutte le sue perplessità e spiegava perché quel romanzo non andò mai avanti. Manzoni, suocero di D'Azeglio, era un ottimo conoscitore di cronache italiane e io una volta mi sono divertita a ricogliere tutte le risonanze di cronache italiane che noi troviamo nei Promessi Sposi. Ce n'è un'infinità e questo è un discorso di cui parleremo a tavola, ma non qui. Ora, fin qui, noi abbiamo seguito, sia pure senza fare puntuali richiami documentari, i testi in cui più o meno esplicitamente si riflette il pensiero e la volontà politica dell'imperatore e dei suoi collaboratori. Testi che ci consentono la ricostruzione delle azioni politiche del sovrano e dei suoi funzionari. Ma è giunto il momento di vedere quale fosse il punto di vista della città su tutte queste questioni, sul vedere quale fosse il loro punto di vista sui rapporti di diritto e di fatto con l'impero. Anche questa è una ricerca che io ho fatto a suo tempo per il professor Maglia, diciamolo proprio che era dedicato a lui. E non ho che da riassumerne i punti essenziali, rinviando per il resto ai Vorträge in Forschung, facilmente reperibili in Germania, e alla raccolta di scritti di storia medievale che è stata fatta quando ho compiuto 70 anni, qualche anno fa, e in cui questa è stata inserita. Io vorrei però richiamare l'attenzione su un dato di fatto, che in Italia deve essere sempre tenuto presente. Le città italiane sono una realtà antichissima, di cui ciascuna di esse è perfettamente consapevole. Ciascuna di esse, nel parlare di se stessa, era più o meno in grado di riportare la propria origine all'età romana o addirittura di ricollegarla alle migrazioni delle genti troiane, come suggeriva l'educazione scolastica tradizionale, attraverso cui il ceto dirigente era passato e che in molti modi raggiungeva anche gli indotti. E basterà ricordare quella terzina dantesca in cui si parla della donna che, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia dei troiani di Fiesole e di Roma. In realtà la tradizione cittadina, la coscienza cittadina, è tutt'uno con la città stessa, intesa come continuità di insediamento e trasmissione di sentimenti e di passioni, di aspirazioni e di esigenze spirituali e pratiche. È un'affermazione questa tutt'altra cosa che l'affermare la continuità delle istituzioni del municipio, fin dal municipio al comune, come qualcuno ha creduto di dovermi rimproverare molto di recente. Non tutte le città italiane hanno trovato chi fosse capace di sintetizzare questa tradizione in componimenti poetici del valore documentario del Versum de Mediolano Civitate o dei Versus de Verona, ma tutte più o meno hanno riflettuto su se stesse, sul proprio passato e sul proprio futuro. Sum ergo cogito, avrebbe potuto dire di sé stesso in quanto cittadino più di un uomo colto dall'VIII secolo in qua. Ma sul terreno dell'agire pratico, molti altri avrebbero potuto dire sumus et tantum sufficit. Esistiamo e basta, questa è la realtà. E esistiamo, questo basta, e vogliamo che siano rispettate le nostre consuetudini, le nostre prerogative. Ma per quanto non siano mancati episodi in cui i civis si sono trovati in aperto contrasto con le autorità locali dal IX secolo in poi, perché c'è tutta una tradizione, con formulazioni di principio e di valore generale non se ne sono mai avute. Si è tutt'al più genericamente parlato della libertas di cui godevano le città del regno, e chi ne ha parlato è stato Enrico III nel diploma per Mantova. Questa dichiarazione che Mantova deve godere delle libertà di cui godono tutte le città dell'impero è una dichiarazione di un estremo interesse. Si riconoscevano genericamente le consuetudini della città, e altri diplomi danno un riconoscimento analogo per altri centri. Questa consuetudine è un termine che nasconde un equivoco, perché per i sovrani intendevano come un complesso di norme che regolavano il diritto privato locale, di prerogative già confermate dai predecessori e concernenti per lo più diritti d'uso di terre demaniali fiscali, esenzioni fiscali e così simili, mentre i civis ne danno un'interpretazione assai più larga e vivace. Le consuetudini che essi pretendevano di vedere riconosciute ed approvate non erano soltanto quelle che esistevano, ma anche quelle che si andavano formando e che comprendevano la nuova organizzazione politico-amministrativa che le città si erano date e andavano ulteriormente lavorando. Noi dobbiamo tenere presente che le particolari circostanze in cui si era sviluppato il moto autonomistico al tempo della lotta per le investiture trasferirono alla collettività organizzata in comune l'esercizio di diritti e di funzioni di natura pubblica che conti, vescovi, vassalli, comitali e vescovili avevano liberamente goduto come di un bene proprio nello sfacelo delle strutture amministrative del Regno Italico in conseguenza della distruzione del Palazzo Regio di Pavia nel 1024, che è stato veramente un grosso disastro. I rappresentanti dell'impero in Italia, i conti palatini, avevano una notevole autorità in fatto di giurisdizione in appello, di nomine, di notai, eccetera, eccetera, ma in fatto di esazioni fiscali credo che non sapessero da che parte rifarsi. I rapporti delle città con l'impero derivano una particolare coloritura dal fatto che nessuna città, che nessuno dei dirigenti di una città comunale si è mai sognato di rifiutare l'unione del Regno Italico al Regno di Germania nel quadro dell'impero, che l'impero è sempre stato riconosciuto come fonte del diritto, come centro del potere. Nessuno si è mai sognato di negare i diritti giurisdizionali, fiscali e militari del regno, ma in pratica l'esercizio di questi diritti e la riscossione dei redditi che ne derivavano erano diventati sempre più aleatori. Gli imperatori della Casa di Franconia, vi ho già accennato Enrico III, avevano deliberatamente e consapevolmente fatto qualche tentativo per regolare con una certa uniformità le relazioni fra l'impero e le città. Enrico III si era limitato a riconoscere le consuetudini, senza chiarire, come si è detto, la consistenza. Enrico IV ne aveva riconosciuto gli ulteriori progressi ed Enrico V aveva fatto altri passi avanti. L'Ottavio II e Corrado III non erano stati in grado di elaborare e perseguire una politica coerente nei confronti delle città. In realtà bastava la notizia dell'imminente arrivo in Italia di un imperatore per mettere tutti in stato di allarme. Ed è molto interessante, a chi voglia rendersi conto di questi stati d'animo, sono invitato. No. Faccio presto. Gioco con l'orologio. Va bene, gioca pure. L'orologio è qui. Va bene. Dunque, dicevo che bastava l'annuncio della venuta di un imperatore per mettere tutti in stato d'allarme. E un testo estremamente interessante è una raccolta di lettere comprese in un Ars Dictandi che è stata composta intorno al 1132, cioè nell'imminenza della venuta di Lotario II. Sono lettere che possono essere assunte come testimonianza della carica passionale che animava i cittadini politicamente responsabili. L'imperatore sta per arrivare, riuniamoci, esaminiamo la situazione, decidiamo una linea d'azione comune, facciamo una riunione, nominiamo una commissione. No, guardate che discorsi sono questi, eh? Dice: ut nos, no ut non nos discordes, sed placatos invenia. Et si contra ius nos ledere voluere, convenienter non valeat. Semper in mente abetote superbiam Teutonicorum, crudelitate tirannorum, axeviciam barbarorum. C'è il richiamo allo ius, alla necessità di essere uniti e questa ostilità agli stranieri. E voi ricordate che le venute degli imperatori, le soste dei sovrani a Pavia, a Milano, a Roma, hanno sempre dato occasione a delle risse spaventevoli. Nella relazione che io ho tenuto alla Reichenau sulla Lega Lombarda, io ho cercato di mettere sufficientemente in chiaro che da parte delle autorità costituite si diffidava molto delle leghe fra le città italiane, perché le leghe apparivano dirette contro la conservazione della pace territoriale, che in linea di principio l'impero tutelava. E perciò l'impero stesso e i suoi giacenti erano contrari alle leghe. E secondo ogni verosimiglianza, per far tacere queste diffidenze, che nelle formule dei trattati di alleanza intercittadina, già intorno al 1130 si introduce una formula. I trattati di alleanza delle varie città italiane seguono, italiani, intendiamo le città dell'Italia del nord, centro-settentrionale e Genova compresa, hanno un formulario ben chiaro, ben preciso, che passa dall'una e l'altra. Siamo sempre nel campo dell'influenza della scuola, nella diplomatistica, nella regolamentazione degli aspetti formali della vita politica. Ora, in questi trattati si introduce la formula salva fidelitate imperatoris. Però bisogna arrivare al 1167, al tempo della Lega, per trovare un'esplicita spiegazione del significato della formula tradizionale, con un preciso riferimento alla situazione politica del momento. Salva fidelitate imperatoris, id est, quod habeat suas res, sicut antecessores abuerunt, accentu annis infra usque ad vitam regis conradi. Hanno la consapevolezza esatta che negli ultimi 100 anni, fino al tempo di Corrado, la situazione è profondamente cambiata. Si aveva la nozione storica che il moto autonomistico cittadino si era realizzato nei corsi di quei 100 anni che intercorrevano tra la seconda spiegazione di Corrado II e l'avvento di Corrado III. Ma non era ancora chiaro che per definire i rapporti fra le città e l'impero non conveniva richiamarsi genericamente a un secolo di evoluzione, ma che conveniva puntualizzare il momento in cui si era realizzato un modus vivendi di soddisfazione generale. Ed è quanto si farà qualche mese dopo, quando un altro atto della Lega si richiama esplicitamente al periodo fra il regno di Enrico V e l'avvento di Federico, cioè al grande interregno. Sul piano teorico, e questo senza mai mettere in discussione le leggi di Costanza di Roncaglia. Sul piano teorico le riconoscevano, sul piano pratico le contestavano, in quanto violavano le consuetudini, le violavano di per se stesse e le violavano per il modo con cui i funzionari imperiali le applicavano. Ed è sul terreno pratico che esplodono contrasti, rivolte, conflitti. Ed è inutile farne la cronaca. Io nella mia relazione alla Rankenau ho molto insistito sulle clausole di natura economica presenti nei patti di adesione alla Lega delle varie città, che tendono a stabilire dei rapporti fra di loro, dei rapporti di esenzioni doganali, dei rapporti di intesa monetaria di un altissimo interesse. E arriveranno, come ricordava anche la professoressa Bocchi l'altro giorno, arriveranno anche a cercare di ottenere la liberalizzazione, l'internazionalizzazione, diciamo così, del corso del Po. C'è tutta una parte economica di estremo interesse, però non dobbiamo neanche illuderci che la Lega fosse straordinariamente salda. Non soltanto ci rendiamo conto dall'elenco dei rappresentanti delle varie città che sottoscrivono i vari atti, non soltanto noi vediamo che non sempre tutte le città sono presenti, può essere anche un fatto casuale, ma un aspetto di disinteresse delle città in certi momenti della Lega è attestato dal fatto che quasi nessuna città ha la serie completa degli atti relativi alla Lega. E il Vignati ha dovuto andarle a cercare a Lodi, a Milano, a Bologna, un po' dappertutto, e altrettanto ha dovuto fare il Manarese. C'è un punto estremamente interessante però, e qui entra in campo la signora Zubbio. Sì, sì, c'entra lei. Perché la Lega a un certo momento ha voluto avere il suo sigillo. Se ne è conservato un unico esemplare e piuttosto mal ridotto. Ma questo sigillo ha l'emblema dell'Aquila imperiale, con la testa voltata dall'altra parte. Cosa? Ed è estremamente interessante. Ora, su questo sigillo è stato scritto molto poco, ma direi che le cose più intelligenti le ha scritte in una mezza pagina, non è di più. Poco più di mezza pagina, mi pare, proprio la signora Zug in quel suo contributo alle analisi in Audi, che raccomando all'attenzione proprio perché il fatto che la Lega prenda come sigillo l'Aquila imperiale, l'emblema come suo emblema l'Aquila imperiale, denota una chiara contrapposizione contro l'autorità imperiale, o perlomeno dire noi siamo un'autorità pari. Ad una formulazione precisa delle richieste delle città nei confronti dell'impero si arriva solamente nel 1175, in quegli accordi di Montebello che sono pubblicati nelle Constitutiones di Federico e che io qui ho messo perché qualcuno forse potrà aver voglia di rileggerlo. C'è qui un elenco delle città che è abbastanza interessante. Ci sono dei feudatari compresi fra le persone che fanno parte della Lega e anche questo è di un interesse. Potrete poi leggerlo con più comodo se avete voglia di tornarci su. La cosa interessante è che all'imperatore si promette di rendere tutti quei servizi che erano stati resi sine violentia et metu, senza violenza e timore, a Erenco V e ai suoi successori, e che città per città sarebbero stati precisati con la procedura proposta dalla Lega, non sulla base di quel dictatus di Roncaglia, quella famosa regalia sunt ecce, eccetera, eccetera, che tutti abbiamo letto fin dagli anni del liceo nell'appendice documentaria del capitolo relativo alla lotta di Federico con i comuni. Ma devono essere città per città, in base sempre a quelle tali consuetudini che si sono andate elaborando. E Quindi si riconosce l'esistenza di situazioni pratiche su cui fondare un nuovo rapporto giuridico. E anche nel reclamare la libertà di eleggere i propri consoli, si ribadiva che doveva avvenire more solito. Si ribadiva che la loro competenza giurisdizionale doveva estendersi sulla città e sul contado. Si chiedeva che fosse riservata ai consoli la competenza di dirimere le eventuali controversie che fossero sorte tra l'imperatore e le città. Ma le città, in compenso, si impegnavano a pagare fodro e colta. Si chiedeva l'annullamento dei patti e delle convenzioni che qualche città avesse concluso con l'imperatore. Se la città non avesse voluto mantenerle, si chiedeva che per le città e le persone della Lega fosse riconosciuto il diritto di costruire e ricostruire fortezze. Si chiedeva l'intangibilità della città di Alessandria, che aveva quel significato strategico, militare, politico e anche economico di cui ci ha parlato Brezzi da buon piemontese. Ci si impegnava anche, si chiedeva anche il diritto del conservare la Lega e dopo aver precisato i diritti e i doveri dell'imperatore cum Roma pergit causa Cipieri di Corona, si proclamavano il libero godimento delle regalie cedute da Federico e dai suoi predecessori a chierici e laici e il mantenimento di tutti i diritti d'uso di cui le città godevano e di tutte le loro antiche consuetudini. È la formulazione più precisa, questa della pace di Montebello, che noi abbiamo delle pretese della città. È fatta in un momento storico preciso, prima ancora della battaglia di Legnano, come voi ben sapete, le trattative non procedettero e la pace di Costanza riprese in parte queste richieste, ma anche le modificò. Fra queste consuetudini c'erano anche quelle create dalla Lega, un insieme di esenzioni doganali, come vi ho già accennato, esenzioni reciproche fra le città che ne facevano parte, accordi monetari, la liberazione della navigazione del Po e la giurisdizione della Lega sulle eventuali controversie fra le città che ne facevano parte. Sembrava che si potesse essere sul punto di creare in Italia o nell'Italia padana una federazione simile a quella dei cantoni, dei primi cantoni svizzeri che dettero vita alla Svizzera moderna. In realtà l'estensione della Lega su tutta la pianura padana la indeboliva proprio perché era estesa. E la indeboliva anche il fatto che la Lega era nata come uno strumento di guerra e non come uno strumento di pace. Federico Barbarossa nel 1175 ne aveva accettato l'esistenza, aveva accettato di avviare con essa trattative di pace. Ma nel 1177, quando era riuscito a rompere l'alleanza fra il papato e i comuni, non aveva fatto la Lega responsabile della conservazione della tregua di Venezia e l'aveva affidata a un collegio di treguani eletti dalle città delle due parti. Non sappiamo come questo collegio funzionasse, se come è probabile le città della Lega tendessero a farne tutt'uno con il collegio dei rettori della Lega stessa. Sta di fatto che a condurre le trattative per la conclusione della pace di Costanza furono i rettori della Lega. Il trattato finale consentì in forma esplicita il mantenimento della Lega stessa, tentando addirittura di farne uno strumento nella restaurazione dei diritti imperiali. Fra gli articoli della pace ne figura infatti uno che impone alle città collegate che accettano quod possessiones et iura, quae nos, cioè Federicus, habemus et possidemus extra societate, iuvabunt nos bona fide manutenere, et sia miserimus recuperare. Ita videlicet, quod finitime civitates ob noxie sinte principaliter hoc facendum, et si opus fuerit, agne teneantur ad competens auxilium, prestandum civitates de societate quae sunt extra Lombardiam, in suo confinio similiter teneantur facere. La Lega, nata come mezzo di resistenza all'imperatore, diventa con questa clausola che la Lega accetta strumento delle rivendicazioni imperiali. Che la pace di Costanza si presenti come una benevola concessione dell'imperatore ai sudditi è una cosa nota. Altrettanto noto che in realtà si tratta di una quasi completa rinuncia a tutti i decreti di Roncaglia. I comuni ottennero il riconoscimento della loro autonomia e delle loro consuetudini, l'autorizzazione di eleggere liberamente i loro consoli, alle cui attività non erano posti limiti di competenza o di spazio geografico, salvo l'unico limite dell'investitura imperiale a intervalli di 5 anni. Ottennero il riconoscimento della Lega, delle loro alleanze, del diritto di erigere fortezza e, per il momento, ne beneficiarono le città della Lega, poi queste prerogative vennero estese per privilegio o per abuso a tutte le altre. Dal canto suo, l'imperatore si era riservato il diritto di investire i consoli, come ho già detto, si era assicurato l'esercizio dei suoi eminenti diritti sovrani nel campo giurisdizionale e militare, aveva poi convertito l'odiata esazione delle regalie ad opera di funzionari con un meglio tollerato e forse più redditizio censo annuo. È il sistema che in fondo viene adottato anche in Inghilterra quando le città ottengono la cosiddetta firma Burgi, cioè delle posizioni forfettarie alla cui distribuzione tra gli abitanti provvedono le città stesse. Ora, nella mia relazione alla Reichenau, che ho in parte riassunta perché le ho fuse tutte e due, il successo ottenuto ha in realtà indebolito la tensione di volontà che aveva portato alla formazione della Lega e ne aveva guidato l'azione. Nata come strumento di guerra, non poté convertirsi in strumento di pace. Mentre l'imperatore, per avere un effettivo potere in Italia, dovette appoggiarsi a città, a gruppi e a fazioni, a città minori per contenere la potenza delle città minori, restaurare per quanto era possibile l'autorità vescovile e le forze feudali. E tutto in realtà ci ritroviamo a una situazione estremamente complessa e confusa e agitata che caratterizza il resto della storia d'Italia. Ma c'è qualche cosa su cui io ho più volte parlato nel corso della mia lunga militanza di studioso di storia. Secondo me, la regolamentazione dei rapporti fra le città e il sovrano non è un fatto esclusivamente italiano. Mi pare significativo che Enrico II d'Inghilterra, fra il 1160 e il 1170, abbia regolato i suoi rapporti con le città dei domini francesi. Che Guglielmo II, genero di Enrico II d'Inghilterra, abbia svolto un'opera legislativa che conosciamo male, ma che interessava largamente le consuetudini e le prerogative delle città siciliane. E Filippo II Augusto, salito al trono nel 1179, ha dal canto suo perseguito una politica sistematica nei confronti delle città del Regno di Francia. È un'osservazione, mi pare, che merita di essere meditata e per vedere se veramente questo conflitto così grave tra Federico Barbarossa e le città italiane non si inserisce, sotto certi aspetti, in un movimento generale europeo di larghissima portata e che è connesso evidentemente con il risveglio della vita urbana. Città prima ancora che comuni. Ho finito. Grazie. Postazione metodologica, sia dal punto di vista dei fatti considerati, sia dal punto di vista delle riflessioni che da questa metodologia e da questi fatti sono venuti, ha molto da offrire. Quindi chi desidera prendere la parola? Wir fangen die Diskussion an. Se me la concede il Presidente. Come no? Anche se posso pensare che non volevo intervenire perché io, come sanno, mi onoro di essere il scolare della professoressa Superiore, quindi intervenire pubblicamente in discussioni che abitualmente sono il nostro fare quotidiano è una dal cosa... 1900 e... Da qualche giorno. Quando io dico che sono 20 anni, lei dice che non è vero, che infatti non è vero, sono 22. Non posso non riflettere ancora un momento su questi argomenti così interessanti sia per lei sia per me, che proprio sul suo esempio anch'io, per quello che ne sono capace, mi sono dedicata alla storia delle città. E forse con qualche sfaccettatura diversa che mi differenzia dalla sua impostazione, ma che peraltro ha sempre come base l'interesse grandissimo verso questo mondo e il mondo cittadino, con tutto il suo complesso di riferimenti alle campagne, al contado e nei rapporti con i sovrani, per esempio in questo caso particolare. Io vorrei subito dire, e poi naturalmente per non rubare tempo alla discussione, perché in realtà ogni riga merita una particolare attenzione, arrivare al punto finale della relazione della professoressa relativa a questo quadro generale dell'Europa occidentale in cui il fenomeno città si fa sempre più vigoroso, sempre più forte, e da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo su quella impostazione che vede la presenza di una coscienza storica, di una memoria storica, di quello, chiamiamola come vogliamo, di questa consapevolezza della città e del suo elemento cittadino di essere quello che è. Quindi sono perfettamente d'accordo su questo, però io mi domando se accanto a questa indagine relativa ai rapporti tra i sovrani e la loro opera, sia i sovrani d'Inghilterra, delle di Sicilia, di Francia e di Federico, nei confronti delle città, non possiamo inserire con un certo peso, non voglio dire che sia l'unico, ma con un certo peso il problema della grande trasformazione economica che è in atto in questo periodo. Grande trasformazione economica che porta, a mio vedere, la cosiddetta, io ho usato un termine di comodo naturalmente, però mi parlo tra specialisti e quindi sanno cosa voglio dire, quello che è il passaggio dall'economia feudale cosiddetta all'economia di mercato e poi più avanti con altri sviluppi che tutti ben conosciamo nei secoli successivi. Quindi che cosa rappresenta questo scontro a un certo punto delle città con i loro sovrani e diciamo pure la composizione che avviene, perché è questo che avviene, no? Tra questi sovrani che ho citato e le città. Cioè è una diversa maniera di intendere l'attività economica e l'economia. I sovrani, in un certo senso, che rappresentano quello Stato centralizzato in un certo senso e organizzato su basi feudali di cui abbiamo sentito parlare anche loro. È schematica questa cosa, lo capisco bene, però spero di riuscire a dire il mio pensiero. Quindi questo Stato che è rappresentato dai sovrani, invece le città che rappresentano una nuova maniera economica, un nuovo sistema, che ha al suo interno tutte le contraddizioni, tutti i rapporti, perché evidentemente non si tratta mai di cose schematiche e fisse, anche all'interno delle città, e questo studio della Fasola più volte citato ci fa proprio vedere come anche all'interno della città c'è la compresenza naturalmente di questi sistemi economici diversi, di questa maniera così differente di rapportarsi all'economia. Quindi mi pare che uno forse si può tentare di cominciare a dare una risposta alla domanda proprio, io credo, in questa visione di diversi riscontri dei sistemi economici. Da una parte, diciamo pure, per intenderci, i sovrani con il portatore della cosiddetta economia feudale, dall'altra le città con queste altre esigenze invece di mercato e anche di produzione di tutto lo sviluppo artigianale che conosciamo. Frau Bocchi, l'osservazione della professoressa Bocchi è, direi, plausibilissima. Il fatto è questo risveglio, questo momento di potenziamento, direi, delle città in tutta Europa, con delle forti differenze però. Perché mentre in Italia noi abbiamo il problema molto complesso del rapporto fra la città e la campagna, la città e il territorio, la città che si fa valere nel territorio, nei paesi del nord, fuori d'Italia, noi abbiamo che le città sono veramente delle isole in un mare feudale. D'altra parte, noi in Italia, data la nostra situazione, abbiamo uno scontro molto violento e molto ben conosciuto. Mentre per le altre città, per gli altri stati, abbiamo anche una certa difficoltà di informazione. Perché la regolamentazione dei rapporti di Enrico II con le città dei domini francesi, non con quelli inglesi, che hanno tutto uno sviluppo particolare, è in funzione della guerra contro il re di Francia. E anche la regolamentazione dei rapporti fra Filippo II Augusto e le città del regno di Francia risentono di questa guerra sempre latente e sempre prevista. Sono in sviluppo sia le città dei domini inglesi, sia le città del Regno di Francia, ma con forme diverse da quelle italiane. Quanto al nostro amico Guglielmo II, Cilento e Lacco, noi abbiamo delle informazioni molto imprecise sulla sistemazione delle relazioni fra Guglielmo II e le città. Certamente una regolamentazione c'è stata, ma la conosciamo attraverso a quello che se ne dice dopo. La storia del regno meridionale, e in particolare della Sicilia, è sempre una storia che si fa male. Perché si fa la storia della dominazione araba servendosi di documenti normanni, la storia di certi aspetti della dominazione normanna servendosi di documenti angioini, è vero o no? Documenti svevi, e poi di documenti angioini, ma direi che molto ci danno proprio gli angioini. E' quella è una storia che si fa male. Certamente che il regno di Guglielmo II appare come l'epoca normale per le relazioni con le città. Però il fenomeno dello sviluppo delle città, che ha una base economica più commerciale fuori d'Italia, commerciale e terriera, perché dobbiamo sempre tenere presente l'aspetto terriero in Italia, è un fenomeno concomitante. E su questo siamo proprio d'accordo. Ecco. Frau Fosoli, prego. Io vorrei ringraziare la professoressa Fosoli per questa relazione della quale veramente approfittato moltissimo, e forse meno dei fatti che della visione e del collegamento dei fatti, e una interpretazione tanto sensibile della quale siamo ormai abituati, ma vorrei domandare una cosa. qualcosa che forse non ha grande importanza sul tema della relazione, ma che si rifà ad un episodio marginale, direi così, che subentra in quello che è stato chiamato il malgoverno, cioè l'eliminazione e la distruzione voluta di certo materiale archivistico negli archivi dei comuni lombardi. Vorrei sapere se questa distruzione, che è un fatto straordinario, non abbia avuto come ripercussione sulle persone una consapevolezza della precarietà della documentazione scritta, e se non ha dato nuovo impulso alla documentazione trasmessa orale. E domando questo perché è proprio nel periodo di Federico I e un po' posteriore anche, che si sono trasmessi dei documenti di testimonianze scritte, delle domande, cioè testimonianze orali, delle domande fatte a determinate persone sulle consuetudini o su alcuni fatti locali. E io mi sono domandata, prima che venissi qua, perché sto pensando su questo problema, come mai proprio in questo periodo sorgono queste interrogazioni, queste testimonianze di persone, benché su determinati fatti certamente ci sono dei documenti archivistici, e potrebbe essere questa la causa, o una delle cause principali, per questa, direi quasi, moda dell'interrogazione del testimone su determinati fatti. La domanda della signora Zug è una domanda molto intelligente e molto acuta. Il fatto che sia stato distrutto del materiale archivistico è stato appurato dal Guterbock, e sul Guterbock e l'esattezza delle sue ricerche ci possiamo giurare. E risulta questa distruzione da testimonianze successive. La conservazione accurata del materiale relativo alla vita amministrativa dei comuni italiani comincia dopo la pace di Costanza. Noi abbiamo negli archivi comunali dei registri che si chiamano Liber Pax Constantiae, perché il primo documento in essi trascritto è proprio il Trattato di Costanza. Comincia dopo quel momento la raccolta della documentazione relativa ai diritti e alle prerogative del Comune, chiariti anche attraverso a quelle interrogazioni di testimoni a cui la signora alludeva. La conservazione degli archivi, però, è collegata con un altro fatto di importanza fondamentale per le nostre città italiane, cioè la costruzione di un palazzo comunale in cui conservare gli atti. Finché non c'è un palazzo comunale, su che cosa succedeva dei documenti? Erano conservati dai consoli in carica, che si passavano la documentazione l'uno con l'altro e nei casi migliori le depositavano presso qualche monastero. Ma dobbiamo pensare che non c'erano ancora quei monasteri strettamente legati con la vita cittadina che sono i conventi dei frati mendicanti. Sono quelli che sono legati con la città, i benedettini lo sono molto ma molto meno. E proprio questo problema della conservazione del materiale fa sì che noi per i primi decenni di vita comunale siamo informati un po' male. è veramente un portento, un miracolo che si siano conservati tanti diplomi imperiali. E certe cose si sono trasmesse oralmente. I diplomi imperiali si è realmente trasmesso un testo, ma per quali vie, tutto sommato, lo ignoriamo. Perché anche se noi ora li troviamo presso biblioteche monastiche, non è detto che fossero là ab origine. È il problema della documentazione, è un problema veramente molto delicato. E abbiamo proprio in questo momento, alla fine del XII secolo, che cominciamo ad avere la fissazione delle consuetudini, la fissazione degli statuti. Cioè la necessità di avere qualche cosa di scritto da trasmettere da l'uno all'altro ufficiale in quel rapido avvicendamento di cariche annuali. Un po' lungo, ma... No. Ciao, Fasoli. Was ich für den Vortrag danke, der mir sehr viele Anregungen gegeben hat. Einmal, weil ich in ganz verschiedenen Fragen von Lies interessiert bin und zum anderen, weil ich vielleicht eine Arbeit über den zweiten Lombardenbund angreifen werde. Aber ich möchte jetzt nicht die Frage stellen nach dem Vergleich zwischen dem ersten Lombardenbund und dem zweiten, sondern auf das zentrale Thema des Vortrages zurückkommen, nämlich dem Verhältnis zwischen Städten und König, was ja ein verfassungsrechtliches Problem ist. Und zwar möchte ich den Vergleich ziehen zwischen den Städten im deutschen Reichsgebiet, nördlich der Alpen und den italienischen Kommunen in Beziehung auf das Problem der Einordnung in das allgemeine Herrschaftsverhältnis. Mir war sehr interessant, dass da eine gewisse Parallelität zu bestehen scheint, nämlich dahingehend, dass beide ja den Kontakt zu dem Königtum prinzipiell suchen, weil sie ja ihre eigene Herrschaft als Stadt von dem König herleiten wollen und herleiten müssen, weil der König als Quelle aller Machtausübung im Reich für die Städte ein gern gesehener und beliebter Vertragspartner und eine gern gesehene Stütze darstellt. Meine Frage geht aber in diese Richtung. Kann man grundsätzlich es so sehen, dass diese herrschaftliche Bindung zwischen Städten und Königtum eigentlich nicht so sehr verschieden war in Oberitalien und im Deutschen Reich, dass eben sowohl die Kommunen das Privileg des Königs oder des Kaisers gerne genommen haben, um ihre Herrschaft zu festigen und zu begründen, um auch Rückhalt und Stütze im König oder im Kaiser zu haben, ebenso wie es die deutschen Städte, die großen deutschen Städte auch getan haben. Dass der Unterschied vielleicht eher darin liegt, dass, wie wir das ja gehört haben, die italienischen Kommunen doch wirtschaftlich sehr viel stärker waren, von ihrem Selbstbewusstsein doch anders geartet waren als die deutschen Städte, die ja noch in einer unsicheren Übergangsphase von der bischöflichen Herrschaft oder anderen Mitherrschaften zu ihrer Selbstständigkeit gewesen sind. Das aber, wenn man es mal auf ein verfassungsrechtliches Problem eine Stufe höher, die herrschaftlichen Beziehungen, die rechtlichen Beziehungen zwischen König und Stadt, dass prinzipiell die Zuordnung von Kommunen zum König oder deutscher Bischofsstadt zum König gleich zu sehen ist. Sì. Und du lo spieghi a tutti. Sì, sì, sì. Giusta. C'è una differenza fra le città italiane e le città tedesche che io lo vorrei chiamare una specie di sfasatura cronologica. Le città, o décalage se vogliamo dirle in francese, le città italiane maturano prima, le città tedesche maturano più tardi. Con la grande differenza che le città italiane maturano in un momento in cui possono affermarsi nel territorio, mentre le città tedesche non lo possono fare. Nelle città italiane noi abbiamo la presenza accanto agli artigiani, ai commercianti, ai banchieri, noi abbiamo la presenza di proprietari fondiari, mentre i mercanti, gli artigiani e i banchieri hanno grosse proprietà nella campagna. C'è questo rapporto fra la città e il territorio che nelle città italiane è molto importante, mentre nelle città straniere mi sembra che gli abitanti delle città hanno delle proprietà nell'immediato sobborgo e non più in là. E i feudatari, gli uomini inseriti nel sistema feudale, nei rapporti feudali, in città, nel comune, non hanno parte, mentre da noi hanno parte anche all'amministrazione comunale. Questa è la differenza fondamentale. Ma che per le une e per le altre l'importanza sia dello sviluppo dell'economico, sociale e culturale della città, mi pare innegabile. Mi sembra di aver risposto, no? Fischen. Una breve osservazione, tornando ancora una volta al dirigimento, naturalmente, alla dieta di Roncaglia. È il punto centrale. Ma non vorrei poi, il secondo volta che torno su questo argomento, non vorrei dire, non arriverò con assoluta verità, facendo solo due osservazioni. Una in linea, naturalmente, con le osservazioni della professoressa. Mi pare che la seconda dieta di Roncaglia si possa considerare una sorta di dieta della pace generale, un tentativo di pace generale in cui si dimostra che una abbiamale lanciese che si può verificare sulla condizione che tutte le componenti importanti ci stiano, e lì è presente anche Milano. La dieta di Roncaglia è dunque un momento di pacificazione, quindi il programma di pacificazione imperiale, e la pacificazione si regge altro che sulla definizione dei reciproci punti secondo quella che è la natura dello Stato, di qualsiasi Stato, di questo Stato, comunque che a me pare ancora chiaramente uno Stato. Quindi a Roncaglia si definiscono i ruoli, la definizione delle regalie è questa. Si noti che è una vecchia questione, perché è in ballo fin dal 1118, Pasquale II, il problema delle regalie torna continuamente, perché il problema delle regalie non consiste poi in altro, è tipicamente feudale, che il complesso dei poteri della maestas, della sovranità, che di fatto sono gestiti da rappresentanti del sovrano, da strutture che però sono feudali e quindi non sono più gestite direttamente. La moneta, il telone, e così si fa, diciamo, questo tentativo di pace, e i quattro dottori entrano, i giuristi bolognesi entrano in questo. E le osservazioni che voglio fare sono sostanzialmente due. Prima, che è già stata fatta, sebbene la posizione di Roncaglia sia una posizione che poi viene abbandonata da tutte le città italiane, in quel momento lì, forse per la presenza dell'esercito, di un potente esercito imperiale, è una posizione che viene accolta. Quindi con tutti accedono, fino al 64, fino al 65, nessuno faccia la guerra a Federico, se non Milano, fino a un certo fatto, che è un certo momento, fino al 75, 76. Quindi in questa pacificazione generale entrano i giuristi e fanno l'elenco delle regole. Facendo questo elenco, essi però sono nella struttura comunale, considerando appunto che per esempio i quattro dottori sono legati al comune, sono dei consulenti del podestà di Bologna, i documenti del 51 e del 54, e addirittura nella curia di Bulgaro si svolgeranno poi in seguito attività. Quindi io sosterrei il perfetto legame tra i quattro dottori e il movimento comunale, considerandoli comunque come dei tecnici del diritto. lì, il problema è poi dopo di vedere da chi verranno questi, ripeto. Da chi? Fino ad ora le regalie insieme, però le deve il conto di andare, le vedrai in una sede, questo è il punto. Quindi il problema è di chi le gestisce. L'altra cosa che voglio dire, e questa è una contraddizione che abbiamo notato varie volte, ed è che l'elenco delle regalie sono chiamati quattro dottori romanistici di diritto romano, ma le regalie non sono mica di diritto romano. Per cosa serve il diritto romano? Per definire, per esempio, le Remanie, che è pure la prima delle regalie, cioè la terra remannica. No? Le Angarie o le Perangarie, non c'è nessun passo del diritto romano. Quindi buona parte delle regalie, non so fino a che punto, l'esame è stato fatto dal Colorni, ma condotto fino a un certo punto, in realtà questa è una materia terribile, quindi molto difficile. C'è una parte ovviamente che è chiaramente romana, per esempio direi la moneta, non so, l'inventio tesauri, questo è un principio tipicamente nel DG, ma c'è una metà dell'elenco che non esce perché è fatto di istituzioni, di prassi regalistiche di tipo germano. Io sono perfettamente d'accordo con Colliva, centralità del problema della definizione delle regalie, perché è un problema molto vecchio. D'altra parte c'è questa apparente contraddizione dei romanisti chiamati a dare a fare una ricognizione di diritti che solo in parte sono, diciamo, di diritto romano e che in buona parte sono di diritto germanico, ma intervenivano come esperti, allo stesso modo che quei due personaggi che abbiamo ricordato, Gerardo Cagapisto e Anselmo dell'Orto, che erano personaggi del mondo comunale e che pure si occupano di diritto feudale. Un giurista, un consulente, si occupa di molte cose e d'altra parte io credo che Federico II volesse avere giuristi per dare una forma giuridica a questo problema di pacificazione generale, di ricognizione generale di diritti. Intervengono come tecnici, questo sono perfettamente d'accordo. Se posso aggiungere una piccola cosa, io mi permetto di ricordare, se la testa non mi abbandona, che insieme con i quattro giuristi, lo hai detto anche te in un altro intervento, vennero chiamati degli esperti, 28. Diciamo 28, che sono esperti, e quindi torniamo al problema che poneva la signora Zu, cioè al problema del domandare quello che non si aveva per iscritto. I giuristi avevano il corpus iuris e gli esperti dovevano essere interpellati, perciò vengono presi, mi pare, due per ogni città. Due per ogni città, sono 28 scelti dall'imperatore. Non devo tradurre. Devo tradurre la signorina. Bitte un menschuldigo, un fascismero, pistolcia o dell'italieri. E mica che sono d'accordo con Corriva. Sì. Frau Fasolin. Ergänzung bringen. Die vier Bologneser Juristen, die hier angesprochen sind, sind ja nicht nur Lehrer des römischen Rechts. Hugo de Porta Aveniana hat eine Summula de Pugna geschrieben, das heißt, er beschäftigt sich mit dem Kommunal- oder mit dem Gewohnheitsrecht, das in der Lombardei gilt. Und das Lehnrecht ist zweifellos diesen Bologneser Juristen genauso gut bekannt wie dem in Mailand, sodass man also nicht nur sagen kann, es sollen nur Gesichtspunkte des römischen Rechts berücksichtigt werden, sondern ich glaube, sie gelten als die Autoritäten des gelehrten Rechtes schlechthin. Ora, le ragioni di questa fragilità, lei indicava tra l'altro nella natura offensiva della Lega, no? Sarebbe nata contro un nemico comune e non per delle ragioni di tempo di pace. Però se non sbaglio, anche i cantoni svizzeri con cui lei faceva un paragone sono allo stesso modo, E poi, come direbbe Sigismondi, quelli che li ha tenuti insieme c'è stata proprio la volontà di mantenersi liberi, ognuno libero, e perciò uniti contro chi potesse tentare il mondo. Allora, la ragione vera della fragilità non sta proprio nell'avanzamento economico già, certo, e nel fatto che lei sottolineava che queste non erano città, ma erano città comunitarie. Per cui non era possibile per loro neanche una forma tipo ANSA, diciamo, una confederazione di città mercantili, ma che non erano in attrito vero, perché poi le terre intorno appartenevano ad altri. Esatto. I produttori e i consumatori erano tutti le terre. E io sono perfettamente d'accordo in quel uno, io ho fatto un discorso un po' rapido, e appunto questo fatto che le città italiane non potevano mantenere questa unione come poterono fare con i cantoni svizzeri dipende proprio dalla vivacità della loro vita economica e della loro espansione politica, e anche poi dall'estensione territoriale della Lega, perché in linea d'aria da un capo all'altro sono più di 280 chilometri, e per quei tempi per mantenere un'unione era una distanza considerevole. E poi proprio veramente la divergenza di interessi, per cui il Tribunale della Lega non riesce a controllare più niente, non lo vogliono nemmeno controllare, è un mondo diverso.